raccolgono appunto qualche cosa del materiale di cui lui discuterà in questo momento. Il primo è il disarmo e la pace, una specie di dancing dei documenti del Magistero e anche delle riflessioni teologiche su di essi, raccolte a cura della giustizia de Pax Christi. Sì, è Pax Christi, E poi quest'altro, i messaggi per la giornata della pace di Paolo VI, a cura appunto di Lora e di Mattai. Per il resto lo conoscete anche voi tutti, non dico tutto quello che lui sa fare e sa soprattutto che, direi, allegramente presentare. Va bene. Il tema rimane, mi raccomando, quello solito, cioè per noi non è la pace in quanto tale, ma la pace in situazione, la sua possibilità. Ieri abbiamo visto in quella famosa escalation solo alcuni gruppi rarefatti, intensi, possono raccogliere questo messaggio di pace, o tutta la Chiesa, e addirittura oggi facendo diventare, direi, categoria importante, spirito di tutto il cammino dell'umanità. Ecco il problema che noi fissiamo. E allora, ecco, il Magistero dei Papi per noi in questo momento non ha un significato soltanto di sapere cosa dicono come Magistero, ma se veramente il coinvolgimento di tutta la Chiesa ad opera dei Papi indica che c'è un passaggio da un'utopia di pace, chiamiamola così, destinata a pochissimi, o è invece un messaggio evangelico che può passare attraverso la Chiesa intera all'intera umanità. Lo ringrazio in anticipo. E io ringrazio per questa gentile e fraterna presentazione. Spero di non deludere del tutto le vostre attese. È mio compito di presentare alcuni testi del Magistero, di tentarne un'analisi critica, di ricavarne alcune conclusioni. Mentre elaboravo questo testo, che è piuttosto lungo, ma non vi terrorizzate, no? Può essere usato come arma impropria una relazione di 60 pagine, io leggerò soltanto alcune cose e mi terrò nell'ambito del tempo, e appena il moderatore mi dice Mattai piantala, ma eseguisco con puntualità. Dunque, mentre stendevo queste pagine ho sentito l'esigenza di andare a Roma a pregare sulla tomba dei pontefici per chiedere in anticipo scusa se li avrei trattato in questa analisi critica un poco male talvolta, è vero. Io ho la cosa del testo, è vero, e quindi la cosa del testo alle volte prescinde un po' da quella che può essere tutta la ricchezza della persona. E anche stamattina, al ricordo di Ezio Franceschini, ho unito il ricordo di questi papi che per la pace hanno operato. Non so se per quella pace globale, biblica, con tutto lo spessore che questa pace comporta, o se per una pace piccola, per una pace piuttosto di tipo contrattualistico anziché di tipo globale. Non lo so, lo vedremo. Io avanzerò poi modestamente un'ipotesi di lavoro. Se mi consentite, leggerei soltanto l'introduzione, le conclusioni, e poi ci metterei in mezzo qualche esempio di come ho proceduto nell'analisi dei testi, che rinvio in gran parte alla vostra attenzione non appena il libro sarà pubblicato. Io sono puntuale nella presentazione del... se mi faccio qualche lode non date retta. Quando a scuola inizio dico: ragazzi, avete di fronte un sacerdote che crede a quello che dice, non vi dirà mai una parola in più di quello che lui riesce modestamente a mettere in realizzazione nella sua vita. Avete davanti un sacerdote che crede al valore del suo celibato, sa che è una legge ecclesiastica ma la vive in altra dimensione. E ragazzi guardano, c'ho un solo difetto, sono bugiardo. Oppure no? E se essere giovani significa essere dei radar sensibilissimi a tutto quello che di nuovo si muove nella società, se essere giovani significa cadere, certo, dateci il diritto di sbagliare, ma anche sapersi rialzare, se essere giovani significa godere ancora della bellezza di un'aurora e di un tramonto, ebbene, io non sono giovane, uno si aspetterebbe chissà. L'interpretazione dei testi del Magistero sulla pace pone problemi e dà da pensare. In convegni precedenti, in questa stessa sede culturale, sono state avanzate interessanti prospettive sulle molteplici letture della scrittura e le questioni che esse suscitano. Mi domando, è forse troppo azzardato ipotizzare anche per i testi magisteriali letture diverse, simboliche, strutturali, materialistiche, politiche, modalità non univoche di attualizzazione e usi molteplici? Senza dubbio possibili e doverose appaiono analisi critica ed ermeneutica dei testi, che pongono interrogativi circa la natura del linguaggio usato nei documenti del Magistero e sui giochi linguistici in essi ravvisabili. Tale linguaggio, benché non rivesta la complessità di quello scritturistico, in quanto è linguaggio cherigmatico, simbolico, quello della scrittura, e prevalentemente dottrinale, quello dei testi magisteriali, si manifesta problematico quando poniamo attenzione alle mediazioni culturali e alle ideologie in esso sottese, all'uso che i documenti fanno della Sacra Scrittura, intesa per lo più non in senso letterale, ma parenetico, all'intenzione pastorale che lo pervade e che ne determina importanti variazioni. Solo un'attenta ermeneutica di questi testi consente di evitarne usi sbagliati, analoghi a quelli sbagliati che si fanno della scrittura, e mi pare su cui proprio Don Rinaldo si è intrattenuto in altra sede, usi ideologici, moralistici e spiritualistici della scrittura, soprattutto nel tema della pace, no? Ci sono frequentemente questi usi poco corretti della scrittura, che sono serviti per avvallare la guerra giusta, addirittura la guerra di crociata, per avvallare visioni spiritualistiche: la pace non è di questo mondo, la pace è una pace escatologica, quindi alle situazioni inframondane ci dobbiamo rassegnare porgendo l'alta guancia e via via, cioè facendo leva sui documenti, sulla scrittura, per avvallare un pacifismo che non è la non violenza attiva di cui oggi si parla. Per la corretta poi identificazione del senso del testo non va certo trascurato l'immediato contesto storico in cui esso si colloca, come discorso di un parlante a interlocutori precisi, anche se lo scritto trascende l'occasionalità dell'autore e del destinatario immediato, acquisendo un senso oggettivo e una sua efficacia storica. Questo tema dell'efficacia storica del testo della Wirkungsgeschichte è molto importante, in quanto a partire da esso si supera il rischio della soggettività arbitraria della interpretazione, e qui Boff avrebbe parecchio da dire, e lo cito, sei il primo ad essere citato. In altri termini, forse più comprensibili di quelli di Boff, che dice delle cose. Avete riso voi, non io. In altri termini, forse più comprensibili, una corretta esegesi non può prescindere da un duplice sforzo: quello della contestualizzazione e della attualizzazione del testo. La prima lo colloca nella storia e ne verifica la fecondità storica. La seconda, avvalendosi della distanza temporale, intesa non come abisso da superare, ma come supporto interpretativo, sono le suggestioni di Gadamer, a voi ben note, consente una più adeguata comprensione della verità del testo, di quello che voleva esprimere, delle sue implicanze, prima non pienamente avvertite. E questo tipo di ermeneutica conduce anche all'autocomprensione. Tali criteri ermeneutici sono ormai pacifici per quanto riguarda l'interpretazione della scrittura. Forse non altrettanto vale per i testi magisteriali, soprattutto quando esprimono verità dogmatiche. Secondo Gianpietro Boff, oggi l'ermeneuta delle definizioni conciliari non sembra godere dello stesso spazio di libertà concessa all'ermeneuta biblico. I testi che prenderemo in esame non toccano materia dogmatica e quindi presumiamo di poterci avvalere di una certa libertà interpretativa, in quanto ai temi infatti della guerra e della pace cui faremo riferimento, in quanto appartenenti all'etica sociale, come del resto tutta la sfera della morale, non sono stati mai fatti oggetto, che io sappia, di definizioni contrassegnate dai caratteri della dogmaticità e infallibilità, ancorché talune direttive, come il divieto morale di azioni belliche indiscriminatamente distruttive e della stessa corsa agli armamenti, assumano un carattere perentorio particolarmente rilevante in un concilio d'indole pastorale come il Vaticano II. Nei documenti magisteriali relativi alla pace è importante verificare a quali destinatari sono indirizzati. A prima vista sembra che questi siano i credenti, o meglio la comunità cristiano-cattolica, in quanto distinta dalla comunità politica. Un più attento esame induce a pensare che essi, anche prima della storica svolta del pontificato di Papa Giovanni XXIII, si rivolgono invece ad una sfera più ampia di persone e mirano a formare l'opinione pubblica. Per questa ragione, anche se forse non è la sola, i documenti si avvalgono di diverse mediazioni culturali. Il ricorso alla Sacra Scrittura si allinea prima alla filosofia, con Leone XIII, al diritto naturale, che finisce col prevalere sulla Scrittura, e poi cede il passo in larga misura alle scienze umane, che consentono di allargare ulteriormente la piattaforma di incontro a persone impervie alla luce della rivelazione o quantomeno allergiche a ragionamenti astratti e deduttivi. Di qui quell'intrecciarsi, su cui dovrò molto ritornare, ora dialettico, ora alquanto ambiguo, tra linguaggio parenetico o profetico, consono alla vocazione cristiana e all'indole del messaggio evangelico, e linguaggio sapienziale, prudenziale o anche di compromesso, intessuto di considerazioni realistiche particolarmente adatte a chi tale messaggio o non accetta o non lo ritiene praticabile sul piano delle responsabilità politiche. Nell'analisi dei testi magisteriali mi atterrò più o meno a questi criteri, cercando di evidenziare condizionamenti culturali, i tipi di linguaggio usati, le mediazioni concettuali più ricorrenti, sviluppi, fecondità storica, anticipazioni, ritardi, limiti che in tali documenti è possibile rilevare. Non c'è bisogno di dire, qui c'è presente Don Chiavacci, che limite non è sinonimo di errore, ma è sinonimo di tappa storica, di condizionamento, è sinonimo di parecchie cose, anche di ritardo della stessa teologia, come subito dirò. Gli interrogativi sono molti e non tutti certo nell'ambito di una breve ricerca sarà possibile rispondere. Mi sono reso conto che è un atto di enorme o di incoscienza o di presunzione pretendere di fare da solo una simile cosa, è vero? Mi perdoneranno i papi. Ad esempio, sarebbe interessante vedere quali rapporti intercorrano tra magistero sulla pace e riflessione teologica. Eventuali carenze, limiti del magistero sono addebitabili anche a ritardi della teologia, o anche forse a sfasature tra i due ambiti. E io penso che la relazione di Chiavacci, che ha un titolo molto energico, parla di tradimenti, non mi pare, della teologia, dirà qualcosa. Tutti sappiamo che la teologia si è ritenuta un po' come la Beatrice Dantesca. Posso fare una citazione di Dante? No, chiedo sempre il permesso, perché vivendo con i giovani non sai mai come la prendono. Se citi in latino devi stare attento che non ti parta. La teologia si è comportata un po', mi pare Beatrice o qualche dama dominata da Dante, che dice, no? Io la merce Dio son fatta tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma destro incendio non m'assale, è vero? E riteneva poco conforme alla sua dignità di sporcarsi le mani nella storia degli uomini e nelle questioni della guerra e della pace. Un altro interrogativo riguarda il rapporto tra magistero della pace e situazione di peccato nel mondo. L'interrogativo potrebbe essere così formulato: questa situazione di peccato è solo esterna al magistero, che senza compromessi, con realismo sì, ma mai disgiunto dalla profezia o in antitesi con questa, cerca di adattarsi a tale situazione per superarla, oppure la situazione di peccato è in qualche misura, in qualche modo, anche dentro la parola del Magistero, nel senso che essa, questa parola, essendo parola di uomini, risente del peccato del mondo, che è peccato della sua logica di dominio, di sfruttamento, di potere, di cedimento all'ideologia del nemico, dell'ideologia militaristica. Ecco, sono interrogativi molto gravi, è quello del rapporto teologia-magistero e quello del rapporto magistero e situazione di peccato. Io formulo in apertura questa ipotesi di lavoro che ho cercato di verificare, molto modestamente però, lo dico senza falsa modestia, perché rileggendo mi sono accorto che l'ipotesi non è stata pienamente verificata o con quella puntualità che essa esigeva. Né, ecco l'ipotesi. Nella dottrina, o meglio, nell'insegnamento sociale della Chiesa sui temi della guerra, della pace, dell'organizzazione della comunità dei popoli, è dato di rinvenire, è in senso affermativo l'ipotesi, accanto a pronunciamenti e anticipazioni profetiche, anche limiti attribuibili a condizionamenti socioculturali, a carenze e ritardi della riflessione teologica, a sopravvalutazione di situazioni contingenti. Ecco, lo dirò poi, pensate la sopravvalutazione che Pio XII ha fatto in una parte del suo magistero del pericolo comunista in Italia, è una sopravvalutazione dovuta anche a influenza di persone che gli stavano accanto e questo ha condizionato molto il suo magistero. A livelli medio-bassi della coscienza etico-sociale della stessa comunità cristiana, che se in alcune sue punte emergenti spingeva avanti in direzione profetica, una grande massa invece spingeva a ritardare, ad attardarsi veramente nelle considerazioni che io chiamo realistiche, realistico-prudenziali o di compromesso con la storia. Ecco. È chiaro che il magistero è anche espressione della comunità. Questa sarebbe l'introduzione. E lasciamo stare le premesse, saltiamo subito. Io ho cominciato da Leone XIII, perché così in un primo momento mi era stato chiesto, anche se è un pochino lungo. Lascio stare il buon Papa Leone, che è stato chiamato Papa degli operai, ma anche Papa della pace, perché ha tentato delle mediazioni, come ben sapete. Però la cosa del testo di Leone XIII che io ho potuto vedere, non sempre nel suo testo originale latino, perché la nostra facoltà, per quanto ben provveduta, non ha tutti i testi latini del magistero. A questo proposito, i testi sono necessari, lo sa bene l'amico Chiavacci, quanto bisogna diffidare delle traduzioni. Oltre ai tradimenti della teologia ci sono anche i tradimenti dei traduttori italiani, specialmente italiani, e ne vedremo alcuni esempi eclatanti di traduzioni italiane che risentono, è vero, di certo, di un certo umore circolante in curia, i quali o esagerano la parola o più frequentemente la attutiscono. Lasciamo stare anche San Pio X, veniamo a Benedetto XV. Sarebbe però interessante, ma i limiti del tempo, e così c'è un po' di suspense, ma che cosa dirà il buon Mattai? Benedetto XV. Ecco, Benedetto XV, ne parlo perché è anche un Papa Ligure, eh? Qui quanti siamo, parecchi Liguri, sapete, qui presenti. Io non ve l'ho detto, io sono uno spezzino trapiantato a Napoli, sono della Spezia, nessuno è senza difetti, no? È stato purtroppo Benedetto XV immerso in una vicenda bellica per la prima volta di proporzioni mondiali e quindi si è dovuto fino all'inizio del suo pontificato confrontare con i problemi della pace. Egli, come i suoi predecessori, non disponeva di riflessioni teologiche attuali sulla pace, in quanto le facoltà teologiche e altre agenzie di questo tipo non entravano ex professo nelle questioni attinenti guerra e pace, l'abbiamo già detto, ma le lasciavano volentieri ai filosofi dell'etica sociale, quasi che una materia stimata troppo contingente non potesse rientrare nell'ambito di una riflessione come quella teologica ancorata sull'immutabilità della parola di Dio. A Napoli stanno facendo il sinodo, io sono immerso in queste discussioni fino alla testa, anzi non ho potuto, quasi non ho avuto il tempo nemmeno di rileggere quello che avevo scritto prima del sinodo, perché sapevo che sarei stato travolto da questa faccenda in discussioni dal mattino alla sera. Proprio in sede plenaria uno si è avanzato e ha detto: pensate, l'interesse della nostra facoltà teologica per le materie sociali. Avevo presentato un corso di teologia del lavoro e mi è stato respinto perché mi è stato detto dai responsabili del tempo che la teologia del lavoro non aveva diritto di cittadinanza in facoltà. Io adesso non so quanto risponda al vero, può essere che l'abbiano detto in una maniera un po' più attenuata. Genere il napoletano, io risento forse un pochino anche dell'atmosfera napoletana. Dunque, ecco, vorrei, senza perdermi troppo, ecco, almeno per dare un piccolo saggio di come io procedo nell'analisi, ecco, dopo una brevissima introduzione, prendere in esame un documento di Benedetto, se me lo consentite. Dunque, prima qualche indicazione sulle sue linee, ecco, per contestualizzare. Scoppiata la guerra mondiale, ha già fatto la sua dichiarazione alle nazioni belligeranti, ed è interessante vedere anche i mutamenti di linguaggio quando i papi parlano durante la guerra, dopo la guerra, in altre situazioni contingenti, anche se non sempre i documenti esplicitano questo contesto storico, però il lettore attento si accorge di variazioni di tono e talvolta anche di sostanza, a seconda di queste contingenze storiche. Ecco, le linee direttive di questo pontificato hanno una efficacia storica, in quanto si sono condensabili in questi tre termini: neutralità. Talvolta il traduttore usa il termine imparzialità, che è diverso, Pio XII, più attento nell'uso dei termini, non dirà mai neutralità della Santa Sede, ma imparzialità della Santa Sede nelle questioni che dividono le nazioni in conflitto. Invece Benedetto parla di neutralità e talvolta imparzialità, assistenza caritativa e poi mediazioni pacifiche per vedere di porre termine al conflitto. L'azione caritativa mira a ridurre la disumanità della guerra e a sanarne le ferite molteplici che essa causa nella carne viva delle popolazioni, e le mediazioni pacifiche sono orientate. Notate che Benedetto ha assunto questo atteggiamento di neutralità, a giudizio qui di storici, qui bisognerebbe avere una grossa competenza storica, in quanto egli riteneva che dividere il torto e la ragione anche nella prima guerra mondiale era un'impresa pressoché disperata. Ma anche se fosse stato possibile identificare il torto e la ragione da una parte o dall'altra dei contendenti, il pronunciamento della Santa Sede non avrebbe avuto alcuna risonanza storica, perché San Pio X aveva lasciato una Chiesa priva di ogni credito internazionale. Non avrebbe avuto alcuna possibilità di trasferire la valutazione etica sul piano del pratico politico. Quindi ecco come si esprime Benedetto: riprovare altamente ogni ingiustizia da qualunque parte possa essere commessa, ma coinvolgere l'autorità pontificia nelle contese stesse dei belligeranti non sarebbe per fermo né conveniente né utile. Ecco, questo orientamento, che ha una fecondità storica, perché lo riprende, sia pure col termine imparzialità, anche Pio X secondo nel secondo grande conflitto mondiale. Il grande non è una parola di esaltazione, si riferisce solo all'estensione. So stare attenti al linguaggio, perché diciamo anche Leone il Grande, no? Tale orientamento gli impedì di guidare la politica dei cattolici belligeranti, i quali finirono praticamente col seguire la politica dei loro stati. Ma gli permise però di svolgere una grande opera, ecco qui il grande ha un altro significato, una grande opera assistenziale e caritativa che, come ben sapete, gli ha meritato un monumento ancora in vita, cosa rara per i pontefici, no? Nel 1922 a Costantinopoli gli hanno tirato su un monumento. Adesso prendiamo il un po' contestualizzato, brevemente vediamo, è il documento a cui mi riferisco è intitolato, è in francese, è del 1 agosto 1917, che è un anno tragico, sapete bene che il 17 che anno è stato. Dunque, ecco, vediamo un pochino, è breve, vediamo un pochino. Fin dagli inizi del nostro pontificato, tra gli orrori della terribile bufera che si era abbattuta sull'Europa, tre cose sopra le altre noi ci proponemmo. Una perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti, quale si conviene a chi è padre comune, che ama tutti con pari affetto, eccetera. Poi imparzialità, beneficenza, poi esortazioni e mediazioni per ottenere il bene grande della pace. Sul tramontare del primo anno di guerra noi rivolgendo ad essi le più vive esortazioni indicammo anche la via da seguire per giungere ad una pace stabile e dignitosa per tutti. Attenzione alle aggettivazioni, io dirò poi in avanti che gli aggettivi che noi cristiani, anche nei documenti del Magistero, abbiamo fatto un grande uso di aggettivazioni. Ora gli aggettivi talvolta sono utili, ma a tal'altra gli aggettivi possono far perdere di vista il sostantivo. Quando si è detto difesa della vita, subito un aggettivo, innocente, per mettersi le spalle al sicuro con la pena di morte e la guerra, no? Vita innocente. Disarmo, sì, ma giù una serie di aggettivi della cui origine bisognerebbe, è vero, fare analisi puntuali. Qui il Papa parla di una pace stabile e dignitosa, purtroppo l'appello nostro non fu ascoltato, la guerra è continuata e via. Adesso qui il Papa si preoccupa in questo documento di dare delle indicazioni più precise per indicare i capisaldi di una pace giusta e duratura, lasciando però ai medesimi governanti di precisarli e completarli. Gli appelli, come vedete, sono indirizzati, anche Leone XIII, prevalentemente ai capi dei popoli. Sì, la gente c'è, anche il popolo, ma molto in sottordine rispetto ai capi. Sì, è una pace che viene affidata e consegnata prevalentemente, se non esclusivamente, alla responsabilità dei capi. Non c'è ancora l'appello alla mobilitazione delle coscienze. E primariamente il punto fondamentale deve essere che sottentri alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto. Quindi un giusto accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti, secondo norme e garanzie da stabilire. È una pace che potremmo dire di tipo contrattualistico, contrattata bilateralmente, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento dell'ordine pubblico dei singoli stati, e in sostituzione delle armi l'istituto dell'arbitrato con la sua alta funzione pacificatrice, secondo le norme da concertare e la sanzione da convenire contro lo Stato che ricusasse o di sottoporre le questioni internazionali all'arbitrio o di accettarne la decisione. Stabilito così l'impero del diritto, si toglie una seconda indicazione, ogni ostacolo alle vie di comunicazione dei popoli. Vedete che c'è un riferimento a questo orizzonte internazionale, a questa prospettiva del bene comune internazionale in un tempo in cui le angustie del nazionalismo stretto erano molto forti. Il che, mentre eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità e di progresso. Poi, terza indicazione, abolizione dei danni e spese di guerra. Reciproca condonazione, questo è uno dei punti che ha attirato a Benedetto grandi odiosità, perché hanno detto tu che lui era favorevole agli imperi centrali con queste condonazioni. Qui, però poi scende anche più al determinato, perché parla anche di restituzione dei territori attualmente occupati, quindi da parte della Germania evacuazione totale sia del Belgio con la garanzia della sua piena indipendenza politica, sia del territorio francese, dalla parte avversaria poi pari restituzioni delle colonie tedesche. Vedete che il Papa delle indicazioni di pace le ha date, è vero? Anche indicazioni molto, direi, molto puntuali. Ecco poi altre indicazioni, e al termine di questa interessante nota dice: nel presentare queste nostre indicazioni a voi che reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli belligeranti, siamo animati dalla cara e soave speranza di vederle accettate e di giungere così quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale ogni giorno più apparisce inutile strage. Altra espressione che Benedetto ripete frequentemente: carneficina che disonora l'Europa, inutile strage. La ripete almeno, di quelli che ho visto io, in 3-4 documenti. Anche questa espressione è stata frequentemente rinfacciata al Papa come espressione che portava nelle file dei soldati disorientamento, scoraggiamento. Ecco, questo è un documento importante, è vero? E a cui vorrei aggiungerne un altro. Se queste indicazioni, penso, almeno dall'indagine che ho fatto, abbiano avuto una certa efficacia storica, studiando la storia degli effetti, si vede che queste prospettive hanno camminato sotto, no? Nell'humus cristiano anche del Magistero, ce n'è un'altra che invece è stata lasciata cadere. E a mio avviso è molto importante, è contenuta in una lettera della Segreteria di Stato, ma che ha avuto il pieno avallo da Benedetto, che anche lui si era espresso in altri documenti in questo senso, e cioè la condanna dell'arruolamento militare obbligatorio. La lettera della Segreteria si esprime così: l'arruolamento militare obbligatorio è stato da oltre un secolo la vera causa di innumerevoli mali che hanno afflitto la società. Giungere a una soppressione di esso, simultanea e reciproca, costituirà un vero rimedio. Se l'indicazione di Papa Benedetto, o quello è meglio, l'orientamento di Papa Benedetto di non pronunciarsi sui motivi della guerra, o sulla ragione e il torto dei contendenti, può sembrare a noi un orientamento scarsamente profetico, una neutralità, un tirarsi indietro, un non volersi compromettere, no? Nel giudizio, mentre invece la profezia è anche giudizio sulla storia, questa indicazione ci appare veramente, a mio avviso è profetica, questa indicazione. Questa di aver visto che la coscrizione obbligatoria era una macchina che preparava nuove guerre. E invece è stata lasciata cadere, perché il cedimento all'ideologia militaristica è stato forte. Qualche giurista l'ha ripresa. Ottaviani, che non era un campione di avanguardia teologica, è vero? Il quale nel concilio si andava girando ripetendo a tutti puto, puto, non sputo, puto, bellum esse omnino interdicendum. Ah, posso? No, non mi è arrivato niente, grazie, vi posso accettare con serenità di spirito. Allora, nelle sue istituzioni iuris pubblici ecclesiastici definisce la coscrizione obbligatoria maxima iniuria civibus. Bella espressione, eh? Maxima, gli farebbe piacere anche a Fanella, penso. Maxima iniuria civibus. E invece poi quindi giustamente quanto a quella faccenda del giudizio, se mi è consentita fare una piccola osservazione, ecco, sì, a prima vista pare carente di vis profetica il non pronunciarsi, sono anche i famosi silenzi di Pio XII, anche l'imparzialità di Pio XII è apparsa a molti, diciamo, fuori di questa carica profetica e nel perimetro piuttosto del compromesso, dell'adattamento alla situazione del mondo, quasi che la guerra praticamente sia un dato inevitabile, quindi non bisogna indagare tanto sul perché, sui motivi e sulle cause adotte dagli uomini per far guerra. Ci sarebbe forse da fare un'altra osservazione. Probabilmente questa epoca, questa astensione dal giudizio potrebbe essere fatta rientrare anche in una non violenza. Io penso che il non violento, se vogliamo rileggere questi documenti anche alla luce delle acquisizioni della non violenza evangelicamente ispirata, c'è un'astensione dal giudizio, almeno dal giudizio implacabile nei confronti delle persone. Certo, gli eventi, la storia va giudicata, non si può fare di ogni erba un fascio, non si può mettere sullo stesso piano la violenza degli oppressori e la controviolenza dei poveri, la cui collera è arrivata a un margine tale per cui, come il magma etneo o prossimamente quello toccaferro del Vesuvio, potrebbe emergere. Cioè, la politica del toccaferro e dei cornetti una volta era in valle, era in bocca. Ecco, non posso giudicare quindi la collera dei poveri e io non so che cosa farei al loro posto. Dicevamo ieri sera con l'amico Chiavacci, se anche Gandhi, ho visto il film, l'avete visto il film di Gandhi, è veramente bello, eh? E, è un uomo libero, ecco lì, avverti la profezia, devo andare avanti. Avanti perché io mi sto perdendo, d'accordo, volevo dire solo questo: il giudizio implacabile sulle persone veramente è fonte di guerra, da questo giudizio bisogna astenersi, una non violenza si concreta anche nella rinuncia a giudicare delle persone, come Marilena Garcia, la quale non giudicava i fratelli che impugnavano le armi, però se mi chiamate a un giudizio, io vi dico, siamo coerenti e quindi non facciamo i gianni di fronti, non benediciamo alcune armi e malediciamone altri, altrimenti questa sarebbe un'incoerenza. O perlomeno non erigiamoci a giudici inapellabili e implacabili del bene e del male. Questo è un atteggiamento che è fonte di guerra, di terrorismo, di crociate implacabili. Anche la pace totale biblica è stata collegata e coniugata, anche se non fosse in linea effettuale, ma almeno in linea ideologica, anche con la guerra santa, lo sappiamo bene. Allora, giustamente Papa Benedetto è sollevato dall'oblio, la dottrina tradizionale della Chiesa ha subito con lui uno sviluppo, disarmo, arbitrato, sicurezza collettiva, attraverso istituzioni internazionali vengono accettati come fatti positivi. La nota che abbiamo scorso brevemente del 17 dissipa ogni eventuale residuo di alleanza tra Chiesa e monarchia. La connotazione moralmente negativa della guerra moderna è fortemente sottolineata in quel linguaggio parenetico, esortativo, no? Inutile strage, carneficina che disonora l'Europa, ma che è una connotazione anche fortemente, direi, profetica. Lasciamo Pio XI, anche se meriterebbe di essere considerata, come io faccio, la sua valutazione della guerra. Ecco, un leitmotiv di molti interventi di Pio XI all'appressarsi del concilio è un riferimento alla scrittura, ai salmi, no? Dissipa gentes que bella volunt. È chiaro, qui il Papa non va a indagare il contesto in cui questo salmo è pronunciato, che cosa significhi, in effetti, però lo usa, ecco l'uso che io chiamo parenetico della Sacra Scrittura, no? Se ne serve come preghiera per esprimere tutto il suo atteggiamento di ripulsa umana e cristiana nei confronti della guerra. Però Pio XI aggiunge sempre l'aggettivo di una guerra ingiusta. Di una guerra ingiusta, perché nella sua prospettiva rimane sempre la possibilità di una guerra di difesa giusta, di una guerra di difesa giusta. Ecco, dice, noi invochiamo la pace, benediciamo la pace, vogliamo la pace, preghiamo per la pace. Ma se per avventura ci fosse chi, il discorso è del 1935, per supposizione impossibile, per un fenomeno nuovo di mania suicida e omicida, ecco, mania suicida e omicida, per un segno, delle nazioni, proprio preferisse non la pace ma la guerra, allora noi abbiamo un'altra preghiera che purtroppo diventa doverosa e dobbiamo dire a Dio benedetto, dissipa gentes que bella volunt. La ripresa della guerra, aggiunge il Papa, sarebbe un delitto così enorme, una manifestazione di furore così folle, che la riteniamo impossibile, secondo un detto giuridico, que contra ius fiunt, neque fieri posse credenda sunt. Una guerra che non fosse che di conquista sarebbe evidentemente una guerra ingiusta. Ecco qualcosa che passa ogni immaginazione, qualcosa di indicibilmente triste e orribile. Noi non possiamo pensare a una guerra ingiusta, non possiamo ammetterne la possibilità e noi la escludiamo deliberatamente. Non crediamo, non vogliamo credere a una guerra ingiusta. Ecco un piccolo accenno. Voi sapete come Pio XI abbia fatto qualche anno dopo un pronunciamento relativo al Messico, a cui si è rifatto. Ti voglio mettere tra poco. Sì. Un pronunciamento a cui si è rifatto anche recentemente Baget e Bozzo nella sua critica agli atteggiamenti tenuti dall'attuale pontefice nell'America Latina. Baget e Bozzo, ha detto il pontefice, nella condanna della guerriglia, della sollevazione anche armata di questi popoli contro regimi sostanzialmente iniqui, ha dimenticato una teoria tradizionale nella Chiesa, a cui si è sottratto soltanto Gregorio XVI proprio in un caso che riguardava la Polonia. Vedi caso, ci sarebbe da dire. È vero. E quindi diceva, dalla teoria della tirannide ex defecto titoli ex defecto esercizi, sottotacendo i monarcomachi, fino a questo pronunciamento di Pio XI, il quale diceva che in casi estremi, quando veramente lo Stato diventa iniquo, anziché ricercare il bene comune, ricerca l'interesse proprio, offende sistematicamente i diritti della persona in maniera tale che non si vede altra via di uscita, in questo caso l'insurrezione armata, la rivoluzione violenta sarebbe lecita. Però il Papa enuncia delle varie condizioni. Qui ho raccolto un passo che mi è parso significativo, perché anche in questa stessa ipotesi, e lo dice parlando a proposito della guerra spagnola, l'uomo che cerca l'uomo per ucciderlo, per ucciderne il maggior numero, per danneggiare lui e le cose sue con mezzi sempre più potenti e micidiali, è sempre tremenda e inumana cosa, Che dire poi quando la guerra è tra fratelli? Fu ben detto dal Manzoni che il sangue di un solo uomo sparso per mano del suo fratello è troppo per tutti i secoli e per tutta la terra. Che dire in presenza delle stragi fraterne che continuamente si annunziano? Questo è nel contesto della guerra civile spagnola, è ormai terminata, e il Papa dà un giudizio, come vedete, molto severo. Ecco, questo è un punto molto delicato che dovrebbe essere approfondito, perché capisco, mi hanno contestato recentemente anche gli amici di Pascritti, a cui anch'io appartengo, è vero, il Consiglio Nazionale, perché diceva: tu Mattai mi metti sullo tendi con i tuoi pronunciamenti che vorrebbero essere coerenti e profetici, però fai dei pronunciamenti metastorici perché i tuoi discorsi fanno acqua, perché omologhi la violenza degli oppressi e degli oppressori, bisogna calare sempre i principi, questi sono principi metafisici, metastorici, bisogna calarli nella storia, eccetera. Ma adesso io vedo che il tempo mi è scaduto. Cosa avrei detto? Dunque, ho detto in sintesi proprio rapidissima, in Pio XII, Il mio giudizio su Pio XII è piuttosto severo. Io sono stato a Roma proprio nei tempi della guerra, ero entusiasta di questo Papa, eccetera. Adesso, rivedendo i documenti, sono quelli che mi hanno consentito maggiormente di verificare l'ipotesi fatta all'inizio, cioè che la profezia cede veramente il passo al discorso prudenziale. Ecco, l'ho visto. Ci sono anche delle cose che merita non rilievo. Ecco, vogliamo leggere solo la conclusione, omettendo l'analisi? Ecco, sì, è sempre di sì, chiaro, perché il povero chi ascolta. Dunque, rileggendo alla luce dell'attuale contesto e soprattutto della nuova ecclesiologia conciliare, avvertiamo che il progetto di società cristiana avanzato da Pio XII, il suo grande progetto, pecca di astratismo, in quanto non tiene nel debito conto il pluralismo ideologico e religioso del mondo, privilegia ancora troppo i responsabili ad alto livello, trascura l'analisi strutturale dei conflitti e l'apporto delle scienze umane per individuarne le cause. Inoltre, la mediazione del diritto naturale, concepito come immutabile nella sua stessa sostanza, è molto declinato anche nei suoi precetti, nelle sue indicazioni, determina veramente una dottrina sociale della società civile, della famiglia, della comunità internazionale a carattere fissista, fornendo a queste articolazioni del sociale una sorta di assolutezza travalicante ogni mutar di tempo, come dice lo stesso Pontefice. L'appello poi alla crociata per la costruzione di un nuovo ordine politico e internazionale, per una nuova nobile società che abbia il suo incrollabile centro di gravitazione nella legge divina, mi è apparso un progetto troppo astratto, di impossibile riedizione della Societas Christiana. Infine, la concezione della pace di Pio XII, pur essendo quella più organica, più elaborata, che sia stata fatta, no? Io ricordo l'entusiasmo che in me giovane destavano i presupposti per la pace internazionale, soprattutto nei commenti della agile e bella penna di Donella, no? Guido Donella. E la concezione della pace di Pio XII non rivela adeguato spessore evangelico, in quanto, nonostante i consueti riferimenti neotestamentari, appare eccessivamente legata al diritto naturale interpretato in maniera troppo contenutistica e deontologica. Per quanto concerne poi la guerra, anche la guerra ABC, atomica, batteriologica e chimica, anche se l'influenza di persone in cui egli riponeva molta fiducia, come il padre Gundra, a cui è attribuita l'espressione fiat justitia et pereat mundus, e degli altri quali pensavano, anche se non lo dicevano sempre, Gedda, Lombardi, meglio morti che rossi, non si è giunta a fargli accettare in tutto la prospettiva della guerra ABC, ma soltanto nel caso estremo che diritti e beni, beni, di altissima rilevanza e diritti sostanziali della persona e delle comunità fossero pertinacemente e irrimediabilmente lesi, però in questo caso anche la guerra a ABC può avere campo. Però il Papa avverte di dire una cosa grossa, no? Perché anche egli ha presente le stragi di Hiroshima, Nagasaki, è vero, e le enormi potenzialità distruttive dell'arma atomica. E allora dice, a condizione però che l'uomo riesca a mantenere il controllo di queste armi. Quando non riuscisse più a controllarle, allora si esce dall'ambito della legittima difesa. Ecco, notate che Pio XII questo punto della difesa l'ha sviluppato, ma sempre in termini di difesa armata. Cioè, non si può rinunziare a difendere certi beni e certi valori, quando siano offesi, perché altrimenti si cadrebbe nella codardia, si incoraggerebbero gli aggressori. Questo l'ha detto nel 48 e l'ha ripetuto poi nel 56, nel Natale del 56, in occasione dei fatti di Ungheria. Ecco il contesto storico che fa dire al Papa delle cose molto gravi, a mio avviso, nel senso che in fondo il Papa non esce ancora dallo schema di una difesa concepita in termini militari. Di Papa Giovanni, ecco, qui avrei parlato tanto, perché ecco qui c'è il salto veramente, no, c'è il salto, qui si sale veramente sulla terrazza profetica, e io godo, come padre Balducci lo dice molto meglio di me, dice che è stato afferrato da una gioia istituzionale nel leggere la Pace in Terris, proprio perché, dice, la Chiesa istituzionale ha tanto da farsi perdonare, non perché noi vogliamo gettare i sassi addosso e condannare al rogo la Chiesa istituzionale, perché anche noi non andremo esenti da queste vampe infernali, vero? Ma proprio perché ci sono appunto dei debiti da farsi, grossi da pagare anche con la storia, è una gioia istituzionale vedere che la profezia è arrivata anche ai vertici, e sul discorso prudenziale, sul discorso sapienziale prevale finalmente il discorso profetico, e il traduttore invece non ne ha percepito tutta la forza e ha addomesticato quell'alienum est arat quare etate ac nostra que vi atomica gloriatur absonum est aratione bellum esse medium aptum esse ad iura violata sergenda, abbastanza. L'alienum est aratione, cos'è diventato? Riesce quasi impossibile. Non eri a Roma, tu lavoravi in segreteria con Roma, non sei stato tu? No, non ero entrato ancora, Ecco, questo quindi, Papa Giovanni. La forza profetica della Pace in Terris, di cui celebriamo il ventesimo, è vero, e veramente qui meriterebbe, no, di sollevare il nostro pensiero, sia al quadrilatero di Papa Giovanni alla pace che viene posta in primo piano, non viene più vista come un capitolo dell'insegnamento sociale della Chiesa, ma come la sostanza stessa del Vangelo, come la dimensione essenziale della stessa esistenza cristiana. Questo è il salto profetico. Mentre invece prima si parla della pace come un elemento importante, ma non è ancora la pace evangelica, veramente la pace evangelica, che oltre ad essere indissolubilmente connessa con la giustizia, è anche opera di questa stessa giustizia che diventa Gesù Cristo. Non è la giustizia delle nostre opere che opera, che fa venire la pace, come pensava un po' il mondo ebraico, no? La pace, sì, è dono di Yahweh, ma è la nostra giustizia che in fondo la realizza, è condizionata alla realizzazione della nostra giustizia. Invece qui è la giustizia che è Gesù Cristo. E omettiamo anche il Vaticano II perché è troppo noto, è troppo lungo, certo, no, è troppo, non è, però sarebbe... In questo momento è noto. In questo momento qui è noto, in questo momento qui è noto, ora e qui, anche nel Vaticano II, però nella Gaudium et Spes, che pure ci ha tanto entusiasmato, questo equilibrio instabile, questa oscillazione talvolta ambigua tra spinta profetica, l'absolutum est ratione è finito in nota, e questo non è casuale. E discorso così, oscillazioni tra discorso profetico e discorso prudenziale si notano nella, per esempio, vedete come il discorso per l'obiezione di coscienza nella Gaudium et Spes è collocato malamente nel capitolo che riguarda il dovere di mitigare l'inumanità della guerra, il numero 79, se non erro, è collocato lì, e poi è collocato in forma permissiva. C'era Lanza del Vasto e sua moglie Chanterelle che digiunavano alla trappa per ottenere un riconoscimento pieno dell'obiezione di coscienza e una condanna assoluta della guerra. Invece è venuta la condanna della guerra totale e in termini perentori, però non è venuta la totale condanna della guerra e della difesa armata. È venuta, e l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta, tollerata. Ecco, ci esortano i governi a trattare umanamente gli obiettori di coscienza, no? Quasi che avessero fatto un male, ecco, e quindi trattiamoli umanamente. Ma non c'è nemmeno un richiamo a tutta la storia dei primi secoli. Non c'è un richiamo alle motivazioni evangeliche della obiezione di coscienza. Questo è un cammino ancora lungo da percorrere. La storia della Virkum Geschichte, della Pacem in Terris, è ancora da scrivere, e la dovremmo scrivere noi teologi, modestamente, la gente, mobilitando la coscienza della gente in questa direzione. Arriviamo alla conclusione. Sono disonesto, sì, no. Disforsi. No, no, lo stesso poi hai fatto. Cosa avresti fatto? Ho fatto tutto, ho fatto fino, tutti i pontefici fino all'attuale. Ecco, dell'attuale discuteremo dopo. Discuteremo dopo, perché c'è da, ecco, da inserire il discorso sugli atteggiamenti di questo Papa con i pronunciamenti anche degli episcopati, perché talvolta, ecco, questo è un altro aspetto che non è bene in luce nella mia relazione, verificare cioè se i pronunciamenti degli episcopati siano soltanto cassa di risonanza di questo magistero o se invece siano una rilettura, un'attualizzazione. Talvolta è capitato, vi ricordate per l'Umane Vitae, no? Gli episcopati, le conferenze episcopali hanno riletto, riscritto, riattualizzato il documento. Qualche altra volta, anche per la Populorum Progressio, gli episcopati latinoamericani, il nuovo nome della pace è lo sviluppo, l'hanno riscritto, l'hanno riattualizzato. Il nuovo nome della pace è la liberazione, non è certo quello sviluppo a cui anch'essi in un primo momento avevano guardato come modulo di riferimento, ma è un ben altro tipo di sviluppo, no? Non quello che genera proprio il sottosviluppo. Quindi gli episcopati riscrivono, e anche l'episcopato americano, questo statunitense, questo per me è molto significativo, nonostante i condizionamenti dell'amministrazione Reagan, per i quali io non so che aggettivi usare, vero? Perché sono in tardo a trovare gli aggettivi. Nonostante i condizionamenti dell'amministrazione Reagan, le pressioni anche forse di altre forze e forse dello stesso pontefice, si diceva, mi diceva lì in sede riservata, no? Adesso frequento un po' questi anni, mi dicevano, sai, il Papa non gli piace troppo perché lui ha detto in un documento che la deterrenza nucleare a certe condizioni va, è vero, quando sia il primo passo verso il disarmo, quando non si abbia mai l'intenzione di essere i primi a fare il primo passo, il primo botto, allora insomma, può andare. Allora sembrava che il documento dovesse essere anacquato, difatti la terza bozza appariva più debole rispetto alla seconda, invece ho visto che i vescovi americani sono stati molto forti. Non ho ancora avuto tra mano, se non attraverso indiscrezioni della stampa, il documento dei vescovi tedeschi. Meriterebbero di essere analizzati e vedere e confrontarli poi col magistero pontificio e vedere se i vescovi portano avanti, vero, il discorso. E concludo. È molto lunga la conclusione, no? Vediamo quante pagine è. No, è troppo lunga. No, è troppo lunga. La conclusione, ultima. Non sono pochi a pensare. Ecco, la distanza tra il discorso della montagna. Eh sì. Dunque, sulla profezia. Sì, questo lo posso leggere e basta. Sulla profezia finisce con prevalere in maniera marcata la considerazione etica, la quale giunge a giustificare, anziché l'obiezione di coscienza dei primi secoli cristiani, la guerra giusta e, in passato, anche di crociata, sia pure con tentativi di umanizzarla attraverso vari espedienti e con la preoccupazione di mantenere pulite, attraverso una morale del doppio binario, le mani degli ecclesiastici. E anche delle donne. La distanza tra il discorso della montagna e mediazione etica si è veramente fatta troppo profonda, per cui anche l'insegnamento magisteriale, sommariamente percorso, ci è apparso come affaticato e affranto dallo sforzo di superare tale iato. E tuttavia il Vangelo delle Beatitudini, con il famoso discorso delle antitesi, il morire di Gesù e la riscoperta della teologia della sua croce da un lato, l'inedita svolta nucleare, la testimonianza non violenta delle comunità cristiane e laiche, l'anelito della gente, così bene interpretata da Giovanni XXIII, dall'altro lato, spingono ad operare in questa direzione senza stanchezze e cedimenti. Saldare il discorso della montagna con l'etica, saldare il discorso profetico col discorso realistico-prudenziale. Non sono pochi, infatti, a pensare che i silenzi, le casuistiche, i piccoli cabotaggi etici della Chiesa abbiano finito con risultare funzionali ai potenti della terra e giustificativi anche dei terribili massacri delle guerre da essi scatenate, come ad esempio i bombardamenti atomici in Giappone, mai apertamente e chiaramente dichiarati immorali. La Chiesa perciò, ad avviso di questi critici, dovrebbe saldare nel suo magistero profezia ed etica, Vangelo e contingenze storiche, e proclamare nella parola e nell'azione, senza tentennamenti, in maniera inequivocabile, quel che Gesù ha detto e operato nei confronti della violenza umana aggressiva e omicida. Esigenza tanto più forte in quanto oggi la scelta non è più tra violenza giusta e violenza ingiusta, ma tra non violenza attiva e la non esistenza. Forse queste prospettive potranno apparire un po' peccanti di integrismo, in quanto sappiamo bene, e ieri sera l'avrete visto, che dall'insegnamento di Gesù non possiamo ricavare indicazioni immediatamente operative. A queste si giunge solo attraverso pazienti mediazioni etiche con tutto quel che di attenzione alla storia, alla cultura, alle scienze umane esse implica. Tuttavia mi pare corretto riaffermare la validità dell'ipotesi formulata in partenza, e cioè che in effetti la preoccupazione realistica prevale nell'insegnamento sociale dei papi anche per quanto concerne la tematica della pace e della guerra, e sembra che la Chiesa abbia avuto paura di non essere realistica abbandonandosi alla profezia e alle beatitudini evangeliche. Ora l'antitesi non è tra realismo e utopia, perché l'utopia, quando è autentica, è anche realistica. L'antitesi è piuttosto tra profezia e integrismo. La profezia interviene e deve intervenire quando è in gioco la sorte dell'uomo, e interviene e parla a nome dell'uomo senza farsi sequestrare da interessi e condizionamenti settari, da paure provenienti da demonizzazioni di avversari, escluse dal Vangelo e anch'esse morte nel morire di Gesù. Nella morte di Gesù è morta l'ideologia del nemico. Come negare che un anticomunismo integrista talvolta ha condizionato le indicazioni di difesa avanzate dall'insegnamento della Chiesa? Se il comunismo o qualcosa d'altro appare come male supremo, allora è logico che per difendersi si arrivi a pensare e a insegnare che tutti i mezzi sono leciti per combatterlo ed esorcizzarlo. E potrebbe anche oggi avvenire che uomini miti come San Bernardo ti proclamino che ammazzare il nemico, il turco o chi per esso, non è un omicidio ma è un malicidio. Oggi il peggior male del mondo è la fine del mondo che l'uomo può operare con le sue mani. O si salva l'uomo o non resta più niente. la neutralità per cui la Chiesa appariva sopra le parti, ma che le impediva di prendere netta posizione sulle responsabilità delle nazioni in lotta, oggi non può più avere luogo. La Chiesa deve prendere posizione in favore dell'uomo e della terra che lo ospita, per le generazioni di oggi e di domani, contro quella che non è più un'ipotesi fantascientifica, ma purtroppo una realtà sospesa sulle nostre teste, del genocidio universale. L'avevi detto un po' scherzosamente che non soltanto si può cercare nel magistero ciò che verbalmente e concettualmente dice sul peccato, la situazione di peccato, ma addirittura sembrava quasi che tu hai mostrato in questa fatica di sopperire un silenzio di cui ieri parlava Chiavacci, da Sant'Agostino ad oggi, ma anche per mostrare la fatica di un cammino, sembrava che tu mettessi dentro il tema del peccato come condizionamento dello stesso pensare e dire del magistero della teologia. Adesso io vorrei sapere se c'è anche qualche attenzione nel magistero, dopo di aver svolto questi temi, anche sulla coscienza che c'è una difficoltà interna a fare questo discorso, anche con attenzione alle scienze antropologiche cosiddette, che parlano di struttura dell'uomo aggressiva, di questi condizionamenti che le scienze vorrebbero trovare radicati già nella natura dell'uomo. Una domanda. Una domanda. Devo... Sentiamone qualche un'altra. Tu, Don. Sì, era un'informazione soltanto sulla posizione di Paolo VI. Sembra che, se non ricordo esattamente in quale circostanza, abbia in qualche modo avvallato la posizione di violenza che poi avrebbe ritrattato in un discorso di pari cardinali. Insomma, una precisazione in questo senso. Sì, sì. Padre Eckert, del biblista di ieri. Ah, che purtroppo io solo quel piccolo schema, poi mi lasciate, posso avere qualcosa? Volevo chiedere, c'è un cambiamento nell'indirizzo? Cioè, lei ha detto che Benedetto XV si indirizza ai governanti. Adesso c'è un cambiamento negli ultimi documenti, dato a chi si indirizzano questi discorsi, sì, sì, degli ultimi papi. Poi un altro, il motivo di questo, c'è un cambiamento nelle prese di posizione del magistero. Qual è il motivo determinante di questo cambiamento? È la consapevolezza che le armi nucleari presentano la fine, o è, non so, potrebbe essere, non so, una spinta del Vangelo, anche questo, certo, certo. Consapevolezza del detto di Gesù può portare qualcuno a un comportamento non violento, come nella storia della Chiesa, con i movimenti senza armi nucleari hanno predicato la non violenza. Ora, questo cambiamento del magistero, la ragione è, sono le armi nucleari, per questo che si dice ormai bisogna essere non violenti, se no la cosa va a finire. Va a finire male, oppure una comprensione del Vangelo. Poi ho altri due nomi, poi gli diamo la parola. Lizzi e Doni, e eventualmente se c'è posto a Bob, ma dopo se c'è posto a Bob. Sei stato un primo citato, sarai l'ultimo a cui darò la parola. Allora, Lizzi, il professore... E il professor Negri. Negri. Collegamento tra quello che c'è già dicevo primo, proposta della dottoressa Sicrata, e il numero 31 con un progresso di Paolo VI, sì, sì, certo. Se c'è una continuità di pensiero o se vede solo una situazione diversa? No, sì, sì, sì, certo. Doni, bravi, siete telegrafici. Bravissimo. Sì. Doni. Mi pare che la difficoltà emerge non tanto nella... tra la profezia e l'attenzione alla realtà, quanto piuttosto tra il proclamare una verità che si ritiene come inevitabile, come non possibile da nascondere, e tante volte anche la Chiesa, di fronte a interpretando un certo modo di presentare la verità e in nome della verità giustifica una violenza e addirittura fa violenza, i cristiani fanno violenza, no? Allora mi pare che nel Magistero sarebbe interessante vedere come la Chiesa pensa di proporre la verità, quella verità sull'uomo, quella verità sugli uomini. Per esempio, a me pare che ci sarebbe tutto un filone nel Magistero, specialmente da Giovanni XXIII in poi, sul tema della democrazia, che sarebbe molto interessante da sviluppare come metodologia che la Chiesa propone per il mondo, ma anche all'interno della Chiesa stessa, come un modo che non sia violento, cioè che eviti il richiamo alla verità come una giustificazione per fare violenza. Per fare violenza. Non so se questo sì, è giusto. L'ideologia. Professor Negri, e lo ringraziamo, salutiamo questo nuovo volto. Un teologo dell'Italia settentrionale, un intervento, d'altra parte mi trovo di fronte a un teologo di Capo di Monte, così è rimasto impressionato. Però dal discorso del professor Mattai, mi sembra di molto interesse, proprio la ringrazio perché ho imparato molte cose, proprio questo. E la domanda, trovo per loro, e porto immediatamente alla domanda. La distinzione che lei fa dal discorso profetico e discorso prudenziale non potrebbe in certo qual modo per la differenza configurarsi tra un discorso storico, quello prudenziale, e un discorso metafisico, la cosa che è stata accusata in certo modo. Di fare il discorso metafisico. Ora in conto quando lei dice che particolarmente la pace con Terris aspetta ancora la storia degli effetti, l'efficacia, eccetera, eccetera. E io direi, per esempio, che in questo caso la Chiesa debba avere un discorso storico. Certo, certo. Assolutamente. Sì, è chiaro. Altrimenti, certo. Sì, troviamo di fronte a un discorso profetico che finisce anche con l'odorare un po' di retorica. E la sua conclusione a me passa... Retorica, un po' retorica. Sì, anche io mentre la leggevo, anche a me, sì. Rileggendola adesso del Massimo, c'è del Paese. Sì. La letta con retorica perché era la fine. No, letta con retorica all'interno. Ma ha aggiunto anche un pathos perché si trova. Alla fine è spezzino in dalla Napoli. Proprio. Lascio Bob, mi lascio dopo che ormai se c'è tempo. Adesso Bob, rispondi. Rispondo, eh. Bravo. Dice, erano facili, è stato difficile l'esame. Dice. Ma le risposte erano, le domande erano facili, erano le risposte che erano difficili. Ieri, no? Quale poi disse: ho trovato un professore molto religioso. Bravo, e come hai fatto ad accorgerti? A ogni risposta che davo, il professore giungeva le mani e diceva: mio Dio, mio Dio. Ecco, rispondere a Sartori è un pochino difficile, nel senso che. Ho trovato, sì, delle indicazioni relative a queste situazioni antropologiche e sociali, ma direi quasi per transenna, qualche piccolo accenno. In Paolo VI, che era molto attento, ci sono dei riferimenti, no, a quello che le scienze dicono circa l'aggressività connaturale dell'uomo, ma sono molto sfumate. Paolo VI ha un occhio critico nei confronti dei dati delle scienze umane, cosiddetto, no? Un'attenzione. Altre volte c'è un riferimento, ecco, il riferimento che si trova più frequente è riferito al fatto globale dell'umanità, la quale purtroppo è ancora in una situazione conflittuale. La terra purtroppo appartiene ancora alla... è lo stesso Vaticano II che lo dice, no? La guerra non è stata ancora esclusa dalla condizione umana, è ancora presente. Condizionamento storico. È il condizionamento storico. Ecco, forse su questo ci vorrebbe un'analisi più critica, in modo da non far apparire che la guerra sia la risultanza necessaria o dell'antropologia, l'uomo separato, l'uomo individualistico, l'uomo ovesiano, no? Homo homini lupus. Ecco, questo dovrebbe essere superato nella visione, non dico organica dell'uomo, ma in quello che Rizzi, mi pare, chiama il terzo uomo. Come, ecco, c'è un'analogia tra questa triplice visione dell'uomo, l'uomo globale, organico, sintonizzato a Dio nell'alleanza e al cosmo, l'uomo separato, frantumato, homo homini lupus, che trova anche il suo riscontro sociale negli stati separati e naturalmente antagonistici gli uni degli altri, per cui la pace diventa soltanto la negazione della negazione, è vero? Ecco, bisognerebbe essere molto attenti a queste visioni per aprire il nostro modo di pensare, anche il modo della Chiesa di proporre il suo magistero veramente a una visione evangelica dell'uomo, della riconciliazione, dell'uomo che non è né amico né nemico, ma che tende a farsi amico, ecco, a partire dalla croce di Cristo, sotto la croce del Signore. Abortinium Paolo VI, sì, avallo della violenza più che dell'avallo della violenza è nella Populorum Progressio, il numero 31 esattamente, dove dice che l'insurrezione armata produce sempre dei mali, è vero? Eccetto, e quindi meriterebbe una valutazione etica negativa, eccetto il caso, è come il parectos logo Cornelius, è quella famosa eccezione, è vero, là del discorso mateano. Quando io cito in greco è il massimo che faccio. Una volta. No, il giro qualche volta. È il massimo. Glielo dicevo ieri sera, una volta a Napoli in una tavola rotonda, citai questa frase qui e c'era un giudice che mi ascoltava e disse: ma dai, perché non ha citato il testo aramaico? Io rimasi davvero perplesso e dissi: signor giudice, se il testo aramaico di Matteo o di chi per esso è andato perduto nei primi secoli, le giuro, signor giudice, che non ho responsabilità personale. A eccezione fatta, dice Paolo VI nella Populorum Progressio, del caso in cui l'ingiustizia sia profonda, adesso non ricordo il termine esatto, ma lei mi domanda, ecco, se questo testo della Populorum Progressio, che autorizza l'insurrezione armata, vero, alle consuete condizioni, sia in continuità con il magistero precedente. Io penso di sì, sia un'applicazione del magistero consueto dei papi, sia un filone costante nel magistero. È la stessa domanda di Rizzi, il quale mi domanda, ecco, se c'è continuità, è vero, sì, c'è continuità a mio avviso. Ecco, tra quello che Pio XI aveva detto per il Messico e quello, in un contesto diverso, perché nell'uno era un governo dittatoriale che andava soprattutto contro i diritti anche della Chiesa, invece qui è un'attenzione maggiore alla violazione dei diritti della povera gente, quindi è un contesto un po' diverso, però l'indicazione dottrinale mi pare che sia uguale. Benedetto XV si è rivolto ai governanti, non solo ai governanti, per debito di onestà storica bisogna prendere in considerazione anche le parole rivolte ai belligeranti e ai popoli, c'è qualche indicazione globale, non solo quindi i capi in testa, le mosche cocchiere, ma anche i belligeranti. A partire da Papa Giovanni, come sapete, le encicliche sono indirizzate a tutti gli uomini di buona volontà. Giustamente, vero, non pochi fanno rilevare che gli uomini di buona volontà sono gli uomini che Dio ama, oggetti del beneplacito di Dio, quindi sono tutti gli uomini e tutte le donne e tutti gli uomini religiosi. E questa è veramente una svolta importante, vero, di indirizzarsi alla gente. Sembra che anche i pontefici abbiano capito, no, non lo dico senza ironia, no? Hanno capito che la pace non può essere costruita soltanto facendo una delega ai potenti della terra, finché i potenti della terra poi sono chiusi entro le angustie del nazionalismo, come possono diventare costruttori di pace, aprire delle finestre veramente valide sull'utopia o sullo stesso bene comune internazionale e sacrificare interessi angusti. Vediamo come le stesse prospettive belle avanzate nel rapporto Brandt, no, non abbiano trovato realizzazione a confessione stessa di importanti protagonisti di questa vicenda nord e sud, proprio perché è il nazionalismo che ancora non si supera. E allora ecco che invece di fare affidamento ai grandi della terra è meglio puntare, privilegiare la coscienza degli umili, della gente, coscientizzare le coscienze. Ecco, e questi ultimi documenti, rivolgendosi a tutta la gente, camminano su questa linea. E che cos'è che ha determinato questo cambiamento? E come mai l'ottica è cambiata? Come mai la pace non viene più vista come un semplice capitolo, ma viene vista veramente come una dimensione essenziale del messaggio evangelico? Che cosa preme sulla coscienza dei pontefici? Io penso molte cose, no? Preme, ecco, forse c'è un po' questa dialettica, ecco, riferendomi anche a quello che diceva all'inizio. I pontefici hanno dovuto nel loro magistero pungolare un poco i teologi per costringerli ad interessarsi di certe cose che essi delegavano ai filosofi. Quando i teologi si sono riappropriati di questi spazi e hanno investito questi spazi veramente della potenza evangelica, di tutto il calore, l'impeto della parola di Dio, a loro volta sono diventati pungolatori nei confronti del magistero evangelico. Forse questa è una dialettica. Lui ha accennato più il fatto. Già, la paura. L'ho scritto. Questo è un fatto. Adesso, la seconda cosa, la pressione della gente, dei movimenti non violenti. Certo, venendo studiando i messaggi per la pace di Paolo VI, ho visto che più volte Paolo VI fa riferimento a Gandhi, fa riferimento all'esperienza dei non violenti, anche se talvolta è perplesso, perché appunto per quelle considerazioni realistiche della conflittualità umana, è vero, e la lontana eco forse dei profeti, che i profeti disarmati sempre ruinorno e via. A un certo momento però dice anche che la vera pace è la pace che marcia armata soltanto del ramoscello d'olivo, e prima aveva fatto proprio un riferimento alla rivoluzione non violenta di Gandhi nell'India. La paura, ecco, in Pio XII la paura del nucleare non c'è, anzi dice che nessuna considerazione di paura deve portarci a sminuire il nostro impegno anche di difesa armata per la giustizia, quando la giustizia è gravemente, pertinacemente violata e non ci sono altre vie per restaurarla. Non ci sono, dice, questa sarebbe una considerazione utilitaria e eudaimonistica, è vero, di dire ma la guerra fa troppi danni, ma qui e là, è vero, dobbiamo puntare, è vero, alla restaurazione della giustizia senza calcoli. Di questo tipo, e senza paure, perché altrimenti si cadrebbe veramente nella codardia, dice il Papa. È chiaro che forse non aveva ancora pienamente interiorizzato in termini anche scientifici quella che ingiustamente è chiamata l'Apocalisse, perché l'Apocalisse, che io sappia, è un lieto annuncio, no? Anche l'Apocalisse, no? Non si può parlare di Apocalisse, né di Olocausto, perché anche l'Olocausto è una parola positiva, no? Invece nel parlare comune Apocalisse e Olocausto vengono usati per indicare questa fine del mondo che veramente fa paura. Ora, che cos'è la paura? Non penso io che sia la paura ad agire nel magistero pontificio. Certo, è una considerazione realistica questa del disastro, e sappiamo il Papa come abbia mobilitato anche gli scienziati per diffondere non un'atmosfera di incubo e di paura, ma di sollecitare una nuova riflessione. Veramente questo, il nucleare, a prescindere adesso dalla paura o dagli effetti emotivi che possiamo innescare riferendoci ad esso, veramente determina un cambiamento radicale. Ha ragione Norberto Bobbio nelle sue vie della pace e della guerra, quando dice, allineandosi in questo anche al pensiero di Papi, che le questioni della guerra e della pace, a partire dalla svolta nucleare, devono essere pensati in termini integralmente nuovi. Non si possono più pensare negli stessi termini in cui si pensavano quando le armi avevano una potenzialità ridotta e si potevano in qualche maniera ancora controllare. E la ricomprensione del Vangelo e delle indicazioni non violente del Vangelo, il superamento dell'interpretazione schizofrenica del discorso della montagna, e credo che a forza di dire, di parlarne all'interno dei gruppi, questo è arrivato anche ai vertici, è vero? E fa una certa presa questo discorso, perché a me pare giusto, no? È un trattamento troppo diverso che viene fatto agli inizi del discorso di Matteo 5, no? E poi quello che viene fatto invece per le indicazioni che oggi chiamano non violenti, io preferirei altri termini, perché il termine non violenza è troppo negativo, di agape attiva evangelica. Siamo a doni, dissidio, sì, doni è un'integrazione del discorso, è giusta. Ci può essere un modo di presentare la verità violento, veramente, no? Un modo di presentare che non tiene conto. Io ho in testa il sinodo a Napoli, no? Negli orientamenti pastorali attaccavano: i fedeli devono acquisire una nuova mentalità, cioè, riguardo al loro sacerdozio. Accidenti, devono acquisire. Un documento pastorale deve indicare le vie come acquisire, non glielo puoi sbattere in faccia in una maniera così deontologica, no? Che poi può essere anche violenta. È come quello: se non praticate la carità vi spaccherò la testa a tutti. E grazie anche all'integrazione del professor Negri, che è ovvia, no? È ovvia ma importante. Cioè, non è che il discorso debba essere soltanto profetico. Nella Bibbia trovano il loro posto re, sacerdoti e profeti. C'è posto per tutti. L'importante è che il discorso storico non mi decada nel machiavellismo politico, nell'opportunismo decadente. È importante è che il discorso che lei chiama metafisico o metaetico o profetico non mi decada nell'utopismo inconcludente poi. E qui Mancini dice anche delle cose sagge quando mi dice che la proclamazione... una non violenza assoluta, dice, è un grande bel discorso metafisico, ma che poi non ha presa storica se tu non lo declini anche attraverso la progettualità storico-politica. Grazie. Non posso dire dobbiamo fare pausa. Cerchiamo i mezzi migliori fino alle 10:30. E devi prendere le 10:30 punto. Grazie. Sì, probabilmente che io dovrei passare